La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Ben ritrovati amici alla Rosa Purpura, eccoci al nostro appuntamento settimanale con il cinema da vedere in sala, in casa e ovunque esso si manifesti. Parliamo di cinema da vedere in sala, di novità sul grande schermo. Questa settimana un'altra decina di pellicole che invadono in parte i nostri cinema, con qualche film molto interessante, con un manipolo di attori di quelli che piacciono, come si suol dire, partendo da un presupposto che è un presupposto di classifica, che al botteghino non mi sembra questa settimana ci sia qualcosa in grado di incalzare l'andamento trionfale di Fast and Furious 7, che avevamo lasciato settimana scorsa con il suo esordio di giovedì a 1,5 milioni di euro. L'abbiamo trovato alla fine del weekend a 7,7 milioni e veleggia tranquillamente oltre i 10 milioni. Fast and Furious 7 è diventato assolutamente il caso di questa parte di stagione. Questo per dire che non saranno probabilmente i film di questa settimana a cambiare le cose al botteghino, qualcuno potrà però inserirsi. Noi cominciamo a parlarvi di Humandroid, il titolo di questo film che racconta ancora una volta l'eterno dilemma uomo-robot, robot col cuore, robot coi sentimenti, forse più di un uomo. L'avevamo visto rappresentato in maniera animata questo dilemma con Big Hero 6 e adesso lo ritroviamo con attori in carne, ossa e metallo. Anche quando hai un'arma devi essere così. Boo! Prova tu. Non posso sparare alle genti. Cosa? Non posso sparare, non mi hanno fatto niente. Come puoi fare il colpo con noi se non spari alla gente? Niente colpo. Il colpo è un crimine. E Chappi, l'avete sentito parlare, è un bambino straordinariamente dotato, un bambino prodigio. Chappi dovrà passare quella linea d'ombra che tutti i bambini devono passare per diventare grandi, ma Chappi è diverso dagli altri perché Chappi è un robot. Ed è un robot capace di pensare, di provare emozioni, di avere anche un giudizio sulle cose, come avete sentito. Proprio per questo è in realtà a rischio, è in pericolo, perché molti vorrebbero che questa specie di robot pensante col cuore fosse eliminata. Un film sospeso fra fantascienza ma anche family movie, se vogliamo, fra Hollywood e una, diciamo, una tensione a una cinema di fantascienza indipendente. Un film che ha stregato e piaciuto al nostro Boris Sollazzo, che è in collegamento con noi. Ciao Boris. Ciao Franco, devo dire di sì, forse sarà che mi ha ricordato la mia infanzia, non che io fossi un robot prima, se inteso, ma perché chi è nato alla fine degli anni 70 si è divertito molto con Cortocircuito e inevitabilmente Humandroid è proprio figlio, se non nipote, visto che sono passati 30 anni, di quel film un po' demenziale, un po' divertente, di quel Pinocchio robotico, perché diciamolo che l'altra grande citazione è prettamente collodiana, no? Solo che invece di un bambino di legno abbiamo un bambino fatto di transistor. E questo però viene raccontato sempre con quella poetica di Neil Blomkamp, che devo dire ha davvero scelto questa affascinante direzione di raccontare delle favole sociali, delle favole antropologiche, attraverso la fantascienza. Molto semplici, molto dirette, con District 9. Sostanzialmente si inventava questi alieni che arrivavano sulla Terra e, come tutti i diversi, come tutti gli immigrati, anche se da un altro pianeta, finivano nelle periferie, nelle baraccopoli. Con Elysium poi decideva di raccontare invece la differenza sociale tra chi può permettersi delle cure mediche e chi no, attraverso due pianeti in cui si poteva arrivare solo clandestinamente, in quello più ricco, e adesso racconta invece come verrebbe preso un robot nel Sudafrica, violento, criminale, distopico, perché insomma lo è ancora di più nel film di Neil Blomkamp, violento e criminale appunto, come verrebbe preso un bambino innocente che viene partorito da uno scienziato che forse è troppo ambizioso nel ricercare non solo un'intelligenza artificiale ma un'anima artificiale, un cuore artificiale, e come forse quella purezza che lui ricerca attraverso questo esperimento mal si integra all'interno di un'umanità disastrata come la nostra. Humandroid mi ha stregato perché ha quel pregio che un certo cinema deve sempre conservare, cioè quell'ingenuità entusiasta ed entusiasmante per cui si può parlare agli spettatori come fossero dei bambini, non sottovalutandoli, ma solleticando i loro sentimenti più elementari, cioè la bontà, la voglia di migliorarsi, la voglia di commuoversi, di divertirsi. In più Chatti, che è il nome di questo robot, è davvero irresistibile, cioè ha una carica comica e sentimentale e anche melodrammatica, diciamola, molto molto efficace, e Blomkamp secondo me riesce a raccontare questa fantascienza molto semplice, che non ha bisogno neanche di chissà quali grandi effetti speciali, anche se ci sono, per entrare nel cuore degli spettatori. Quindi non parliamo forse di un capolavoro, non è certo, no? Non porterà alla fantascienza quello che ha portato 2001 Odissea nello spazio, ovviamente, però come nel caso di Pinocchio non può non entrare all'interno dell'immaginario di tutti noi. Sarebbe meglio, e questa è una piccola critica che faccio a Blomkamp, che però diciamo i suoi padri putativi li riconoscesse, nel senso che il cortocircuito ci era arrivato prima e lui ha un po' negato che invece ci fosse questa citazione, che a me sembra estremamente scoperta. Per il resto ve lo consiglio ed è veramente un family movie nel vero senso della parola, cioè genitori e figli e nipoti e nonni si divertiranno a vederlo. Ieri sera ha portato un androide qui. Era senziente. Io gli avevo detto di no. Certo, ma questo è peggio di un semplice guasto. Sfruttiamo questa situazione. C'è un altro robot da mettere in luce. Fallo. Distruggi quel robot. Sarà fatto. E allora Humandroid, forse il film che questa settimana ha più possibilità di incalzare, come abbiamo visto, un box office dominato da Fast and Furious 7, ma dietro il quale la settimana scorsa si è piazzato nel weekend L'ultimo lupo di Jean-Jacques Annaud, che ha avuto una partenza migliore di quella di Into the Woods, mentre al quarto posto, sempre nel weekend, c'è Cenerentola, che però su base settimanale è secondo e ormai ha superato i 14 milioni di euro d'incasso. La Rosa Purpurea. Eccoci qua, La Rosa Purpurea. Abbiamo annunciato Se Dio Vuole, che in questo caso non è una aspirazione, un'esclamazione o un auspicio, ma è il titolo di un film, del film d'esordio alla regia dello sceneggiatore Edoardo Falcone, nel cast Marco Giallini, Alessandro Gassman, ma anche Laura Morante e tanti altri, per una commedia italiana che si misura con un tema, quello del nostro rapporto con la fede, con la religione, soprattutto quando a sposarla in maniera piena, tanto da voler diventare sacerdoti, è un figlio. Senti, invece Andrea, ultimamente lo vedo strano. Vabbè, lui è sempre stato un po' particolare. Ma come, non ti ricordi quando era piccolo che stava le giornate alla finestra a contare le ambulanze che passavano? Infatti l'abbiamo portato dal neurologo. Scusa, ma strano che lo dici come? In che senso? Diverso. Vabbè, si sarà trovato una ragazza, meno male. Allora perché esce tutte le sere con quel furio? Ma che ne so, staranno bene insieme. Dai, che appunto. Come appunto? Vediamo se ci arrivi. Ok. Queste sono le ansie di papà Marco Giallini, cardiochirurgo di fama riprovata, come si suol dire, uomo dalle certezze di ferro, ateo, convinto, comunista della prima ora, un uomo rispettatissimo ma che non lascia davvero niente all'emotività. Sua moglie, l'avete sentita, Laura Morante, Carla, è una casalinga che si è sempre occupata dei due figli, Bianca appunto e Andrea. Andrea, un giorno, prima appunto da qualche segnale che Giallini recepisce in questa maniera, un giorno arriva invece il momento della grande rivelazione. Andrea vuole farsi prete e chiaramente questo getta nel panico il padre molto ma molto di più che l'opzione gay che avete sentito, perché chiaramente va contro tutte le sue convinzioni. Tra l'altro, a fare da traino a questo a questa volontà, a questa vero e proprio chiamata dall'alto, è un sacerdote molto figo, molto ganzo, molto carismatico, giovane, che è appunto rappresentato da Alessandro Gassman, e chiaramente questa figura il papà Marco Giallini la percepisce come quella davvero da sfidare, davvero da demolire anche nell'immagine, per poter salvare fra virgolette il figlio da questa chiamata di Dio. Parte chiaramente una lotta che non vi stiamo a raccontare, ma molto molto divertente, con questo cardio chirurgo che si finge un'altra persona di fatto per cercare di entrare prima in contatto con appunto il sacerdote Alessandro Gassman e poi cercare appunto di demolirlo pezzo pezzo, operazione che chiaramente avrà gli esiti più ampi e impensabili, o anche quelli alcuni pensabili, che potete immaginare. Boris, una commedia che ha, a mio modo di vedere, lo scheletro giusto della commedia italiana migliore, cioè quello dei due grandi protagonisti. Non è questa una commedia corale nel senso dove tutti hanno gli stessi ruoli, gli stessi tempi, ma qui ci sono due protagonisti veri che rappresentano le due anime del film, quella estremamente laica e quella che invece apre a una religione vissuta col cuore ma anche con un filo di disincanto. Sì, devo dire, si vede che è l'esordio alla regia di uno sceneggiatore, di un bravo sceneggiatore come Edoardo Falcone, perché come dici tu, lo scheletro, il soggetto, ma anche la sceneggiatura e i dialoghi sono molto solidi, molto ben fatti e costruiscono una commedia che resiste anche a uno dei pericoli maggiori del cinema italiano, cioè quando c'è una forte tesi di fondo, in questo caso la lotta tra virgolette tra Dio e il non Dio, cioè ciò che è l'ateismo, potrebbe mangiarsi tutto il resto del film, e invece Falcone ha la giusta capacità di andare oltre, di cercare negli interstizi dell'umanità quali possono essere queste differenze. L'intuizione di Falcone più efficace secondo me è quella di scambiare i ruoli di Giallini e Gassman. Nel momento in cui in una sceneggiatura tu leggi che ci sono Giallini e Gassman e che c'è un prete un po' coatto, ex galeotto, romanaccio e un cardiochirurgo affermato, ex comunista, molto imborghesito, che si veste con abiti da 1200 euro, immagini che il cardiochirurgo sia Alessandro Gassman e il prete sia Marco Giallini. Falcone fa esattamente il contrario, forse sfruttando anche l'intuizione che aveva avuto Paolo Genovese, che aveva già fatto fare un padre con figli tra virgolette problematici di fronte a scelte importanti, anzi figlie problematiche di fronte a scelte importanti, e questa strada insomma che Giallini ha preso di ripulire questa immagine, no? Di riuscire a raccontare anche uomini più complessi, e dall'altra parte anche la curiosità che ha Alessandro Gassman dal staccarsi dalla sua immagine tra virgolette da figo da competizione e cominciare a sporcare un po' questo suo stereotipo che gli si era un po' attaccato addosso, penso a Razza Bastarda per esempio. Attraverso questa strana coppia che appunto si inverte i ruoli e che trova però tra l'uno con l'altro una grande alchimia, porta avanti questa storia che all'inizio può sembrare banale, no? Il terrore di tanti genitori di vedere il proprio figlio tra virgolette buttare la propria vita in una vocazione che toglie a loro però qualsiasi ambizione, no? L'ambizione di vedere il figlio laureato, l'ambizione di vedere il figlio avere successo per una scelta comunque più eremitica, più spirituale. Attraverso questo, che è un gioco, no? È un gioco comico anche, appunto l'impressione che possa essere gay, poi addirittura il considerare peggio, il poter diventare prete, c'è un percorso di crescita, un romanzo di formazione che paradossalmente non coinvolge i giovani, che sono più quadrati, vedi anche Ilaria Spada che eravamo abituati a vedere bella e che invece qui si dimostra brava, no? Nel ruolo di colei che cerca una propria via e che spesso però vive di riflesso rispetto agli uomini della propria famiglia, e lo stesso vale per Bianca, Laura Morante, che addirittura fa una scelta di ritorno al passato molto buffa, e c'è appunto questo romanzo di formazione di questi due uomini che hanno già vissuto una vita e che si danno una seconda possibilità, nel caso di Gassman forse anche una terza possibilità. È una commedia solida, forse il suo unico difetto è questa, che non ha l'ultimo salto di qualità, quello che lo potrebbe far rendere ancora più interessante, ancora più profonda. Si accontenta di essere efficace Ma non è poco, nel senso che comunque è un film che diverte, comunque un film che fa riflettere, è comunque un film che ti accompagna fino alla fine con un certo interesse, anche quando, come dici tu, ci sono quei risvolti che possono essere più prevedibili, soprattutto se hai seguito con attenzione il film. E quindi è un buon esordio di Edoardo Falcone, ci attendiamo anche di meglio, per carità. Però, se Dio vuole, gli è andata bene, insomma, volendo giocare un po' con il titolo. Assolutamente, assolutamente, gli è andata bene. Penso che sia un film a cui si esce molto divertiti. Tra l'altro, lo dico, tanto non spoilerò niente, con un finale che a me ha messo qualche brivido addosso. Devo dire che è proprio una scena finale è molto, molto azzeccata. Allora, giochiamo insieme. È arrivato il momento di giocare insieme. Come sempre, un paio di tracce che noi seminiamo di un film misterioso che dovete indovinare. Papà, perché mi avete chiamato come una cosa brutta? Non è vero. La legge di Murphy. La legge di Murphy non significa che succederà una cosa brutta. E allora, questa è la prima clip. Se avete indovinato di che film si tratta, scriveteci il titolo e il vostro indirizzo privato a larosapurpure@radio24.it. Si partecipa unicamente attraverso l'email. I primi due ascoltatori che indovineranno riceveranno il Blu-ray di questo film che sveleremo la prossima settimana, ma di cui fra poco vi faremo ascoltare un'altra traccia. Andiamo avanti con la programmazione cinematografica di questo fine settimana con un film che si intitola L'amore non perdona. È un film che ha una firma italiana, Stefano Consiglio, un cast però internazionale dove accanto ad attrici come Stefania Montorsi e Francesca Einaudi ci sono altri nomi, su tutti quello di Arianna Scarid. Arianna Scarid è diciamo così l'attrice simbolo del cinema di Robert Guédiguian, che poi diventerà suo compagno nella vita e nel lavoro, il cinema del cantore delle Stacche, della Marsiglia, delle banlieue, ma che qui troviamo appunto impegnata in un film italiano. Peraltro Arianna Scarid recita perfettamente in italiano. Ascoltiamo la clip e poi ne parliamo. Quest'anno faccio 60 anni. Tesoro di nonna, ma che bella sorpresa! Lui può stare con te? Sì, tanto ho pensato, il lavoro è finito, non hai niente da fare. No? Ho niente da fare. Ma non ti vergogni? Di che cosa mi devo vergognare? Un arabo che ha 30 anni meno di te. È vero, i genitori non ballano, non ridono troppo e non fanno mai l'amore. Una sessantenne si innamora di un trentenne, lei infermiera franco-italiana, lui Mohamed, immigrato in Italia da Tangeri, amore a prima vista e anche qualche guaio, qualcosina da spiegare a figli e a chi vive intorno a questa coppia. Questo in sintesi il plot di L'amore non perdona. Un minuto, Boris, per raccontarne l'efficacia, quanto questo film sia riuscito e quanto porti a questo film un'attrice come Arianna Scarid. Ma sicuramente il film porta molti argomenti interessanti, nel senso che Stefano Consiglio come documentarista ha sempre cercato nei sentimenti una pietra angolare da cui rivedere il mondo. E qui però abbiamo un film di finzione in cui lui mette tanta carne al fuoco, mette la differenza d'età a sfavore di una donna, mette anche la differenza culturale, e se i presupposti sono così potenti ci si aspetta una costruzione altrettanto ambiziosa. E forse Consiglio, abituato allo stile del documentario, a essere un po' trascinato a cavalcare la storia, nel momento in cui deve invece darle lui un motore, fa un pochino più fatica. Si fa aiutare, se vogliamo, proprio dagli attori, da Francesca Einaudi, come dicevi tu, Arianna Scarid, che si tiene sulle spalle un film che altrimenti sarebbe zoppicante. È lei che rende, con il suo fascino, con il suo carisma tranquillo che abbiamo visto in tanti altri film, con la sua credibilità, perché ci si può innamorare di Arianna Scarid e ci si può aspettare un certo tipo di scelte da Arianna Scarid e dalla sua capacità di recitare questa donna, riesce a tenere sulle spalle questo film, che però più di una volta non riesce, secondo me, a trovare il coraggio da cui parte, non riesce a trovare l'audacia che cercava nel soggetto e che non ritrova del tutto nel film. Quindi è un po' un'incompiuta, un'interessante incompiuta, ma è un po' un'incompiuta. D'altronde, nonostante la lunga esperienza come documentarista di consiglio, è pur sempre un esordio e quindi forse va trattato con la condiscendenza che necessita un esordio. E allora possiamo dire che è un buon inizio, però aspettiamo, perché vorremmo vedere una crescita, un'evoluzione molto più marcata. La Rosa Purpurea. Ancora insieme alla Rosa Purpurea è arrivato il momento di parlare di White God, Sinfonia per Hagen, film che ha vinto all'ultimo Festival di Cannes, quindi un anno fa, il premio Un Certain Regard, diretto dal regista ungherese Cornel Mundruzzo. Un film davvero singolare per scelta, intanto proprio tematica, poi per scelta estetico-narrativa. Un film che racconta una storia che ha, diciamo, come baricentro l'amore di una ragazzina di 13 anni per il suo cane. Niente di molto sdolcinato in questo caso, anzi le scene sono anche abbastanza ruvide. La storia appunto di questa bambina Lily, che ha un cane che si chiama Hagen, appunto il film si intitola White God, Sinfonia per Hagen. È una specie di Labrador con un incrocio con un altro, forse con un Sharpei, e insomma arriva una nuova tassa sui meticci, sui cani meticci in Ungheria. Tutti i cani meticci sono tassati. Il padre divorziato, che ha in gestione la bambina per tutta l'estate, la madre se n'è andata con l'amante, deve scegliere che cosa fare, non ha una grandissima attenzione per i cani, forse neanche per la figlia, che a questo cane è totalmente affezionata, decide di disfarsene, di mandarlo in canile, e vista l'opposizione della bambina decide addirittura di lasciarlo in mezzo alla strada. Buongiorno, signore. Buongiorno. Abbiamo ricevuto una segnalazione. A che proposito? Per un intervento della polizia veterinaria. Cosa? Qualcuno ha dichiarato di essere stato morso dal suo cane. Io non ho un cane. E quello cos'è? Come cos'è? Un elefante, non lo vede? Signore, quello è un cane meticcio di strada, non è di razza ungherese, è prevista una tassa. La paga subito o con bollettino? Questo appunto è il momento in cui questa tassa viene annunciata. A questo punto le strade della bambina e del cane drammaticamente si dividono, ma si dividono anche quelle della bambina e del padre, perché qualcosa si rompe in un rapporto già difficile da costruire fra un uomo solo e amareggiato dalla vita e una bambina che si sente sempre più emarginata da quello che sarebbe il centro della sua esistenza. Il film procede su due piani narrativi paralleli: la storia del cane, che piano piano precipita verso gli inferi, andandosi a cercare, anche con una situazione metafisica particolare, con questi cani che si coalizzano, andandosi a cercare una via di scampo tra maltrattamenti, combattimenti, canili, lager, eccetera. E dall'altra parte la bambina che parte alla ricerca come una sorta di Orfeo al femminile verso una Euridice a cui bisogna, un'Euridice canina, diciamo, a cui bisogna allungare la mano negli inferi. È un film che ha una una poetica molto molto forte, molto ungherese in termini di visione cinematografica, proprio di impianto visivo, e che ha due o tre momenti davvero importanti a livello cinematografico. Poi magari non è un film completamente risolto in certi punti, però gioca su un registro che è davvero un registro originale, cioè quello di dare alla pattuglia canina una sorta di ruolo che può essere quello di una sorta di rivoluzione vera e propria, guidata con una mente che la guida contro i maltrattamenti degli umani. Boris, a me questo film è piaciuto molto proprio per queste ragioni, per l'impianto visivo e per la capacità innovativa di Mundruzzo. Ci sono alcune scene in una Budapest completamente deserta con questa bambina che gira in bicicletta e i cani che le girano dietro, che sono davvero notevoli. So che tu hai qualche perplessità, raccontacela. Ma ho qualche perplessità che però si avvicina molto a quello che tu dicevi, nel senso che secondo me questo film è spaccato in due. C'è una parte interessantissima, originale e in certi momenti straordinaria, e una parte che abbassa il livello del resto, anche perché il resto è altissimo, che in qualche modo ti lascia con l'amaro in bocca perché vorresti che fosse tutto allo stesso fortissimo livello. E quando uso l'aggettivo fortissimo non è un errore, è proprio quello che provo. Secondo me White God doveva avere il coraggio di utilizzare quel sottotesto originale, quell'apparato visivo originalissimo di cui tu parlavi in tutto il film, con questa bambina che doveva essere ben poco umana, perché lì secondo me appare meno credibile, e anche diciamo lo stereotipo della famiglia disfunzionale in cui è ha delle tipologie umane che non danno nulla e che rendono stereotipato quello che alla fine non è, perché lei è una sorta di pifferaio di Hamlin arrabbiato, no? Quando tu parli di quella scena bellissima in cui lei va in bicicletta, i cani la seguono, ha una potenza poetica e visiva straordinaria. Ecco, doveva secondo me essere la macchina da presa, l'occhio del regista e anche l'anima dello spettatore ad altezza cane, perché è quello la forza di questo White God, no? La lotta, la rivoluzione di questi animali emarginati perché bastardi, e cosa c'è di più attuale, verso il Dio bianco, verso il White God, attraverso una legge, attraverso tutto ciò che si è costruito di sbagliato nel nostro mondo per emarginare i diversi, e soprattutto perché anche il registro quasi horror, quasi splatter che questi cani si trovano a dover interpretare è davvero la carica ribelle e potente che porta a White God, che a mio parere però viene annacquata dal tentativo di normalizzazione che c'è nel resto del film, e alla fine l'impressione di una grandissima occasione persa. Diciamo che la mia delusione nasce dal fatto che poteva essere un capolavoro e invece era un calesse, ecco. Invece casomai era un canile, diciamo. Esatto. No, insomma, ecco, io rimango dell'idea invece che il film proprio nel finale ritrovi anche proprio con l'invenzione dell'immagine, perché ci dimentichiamo molto spesso che il cinema alla fine è anche dovrebbe essere soprattutto suggestione visiva, e proprio nel finale secondo me Mundruzzo riesce a ricostruire ancora oltre che un'etica e una morale, questo è un film fortemente morale, ma anche un'immagine che ovviamente non svelo, proprio di capacità di stabilire un linguaggio fra l'animale uomo e l'animale cane. E devo dire che davvero le impressioni sono state, tra l'altro nella anteprima stampa qua di Milano, sono state molto molto favorevoli. A mio modo di vedere resta comunque un film da vedere, sicuramente un film che, come dire, è dispari rispetto al mainstream e cerca strade nuove, ma anche tra l'altro raccontando, poi perché c'è anche il piano di lettura, storia di bambina con cane, non si scappa da quello, cioè non è che se va un ragazzino di 12-13 anni gli mancano gli elementi per capirlo o per seguirlo. È un film che si pone anche a diverse stratificazioni proprio di lettura. Questo è Sinfonia per Hagen, White God, nei cinema italiani. Noi a questo punto vi facciamo ascoltare la seconda traccia del film misterioso di oggi. Dobbiamo arrivare molto al di là della nostra personale esistenza. Dobbiamo pensare non come individui, ma come specie. La Rosa Purpurea a @radio24.it. Se avete indovinato di che film si tratta e volete provare a vincere una delle due copie in Blu-ray di questo film che sveleremo la prossima settimana, scriveteci il titolo del film e il vostro indirizzo. Più tardi vi faremo invece sapere qual era il nostro game della scorsa settimana. Siamo arrivati all'ultima segnalazione cinematografica di questo weekend per quanto riguarda i film in sala. Poi fra poco avremo musical da cinema e avremo anche tutto il cinema da vedere in casa. Però diamoci un minutino per ascoltare prima una clip tratta dal film Il Padre di Fatih Akin, film mostrato alla recente mostra del cinema di Venezia del settembre scorso, e che racconta una diaspora vera e propria, questa volta quella dei turchi, di una Turchia in mezzo alle guerre, di una Turchia perseguitata, ma soprattutto di un padre, quello del titolo, che cerca disperatamente le sue figlie. Papà! Guarda che cosa hai fatto! No! Oh, Guardate, ragazze, una gru. Se vedi una gru, vuol dire che farai un lungo viaggio. Sono arrabbiato. Tornerò! Ritroverò le mie figlie. Non sono più qui, le hanno adottate. Lo sai che anche loro ti stanno cercando? Non ho loro notizia da 6 mesi. Morris Fatih Akin cambia decisamente registro in questo film rispetto a quello che avevamo visto di suo anche recentemente, pensiamo a Soul Kitchen per dire, e abbraccia un film che è una vera e propria epopea. Noi non diciamo nulla riguardo alla trama, se non che il protagonista si chiama Nazareth e nel contesto in cui viene raccontata la storia capirete subito quanto è potente e forte l'idea alla base di cui è questa epopea. Colpisce tantissimo questa scelta di Fatih Akin, perché volendo giocare con le sue origini sembra quasi che voglia insomma diventare un Uri Gilan, cioè che cerchi proprio un altro registro, un'altra visione del mondo. Lui che era bravissimo nel raccontare una commedia sociale, amicale, familiare, dei piccoli contesti europei, di origini turche o comunque di origini esterne, che esplodevano però in una dimensione comunque minimalista, con toni particolarmente divertenti, particolarmente grotteschi e anche particolarmente intelligenti. E qui invece fa un film epico, di fatto, fa un film che anche a livello visivo e a livello registico è molto impegnativo, con dolli, con una produzione pesante, e Il Padre ti lascia un po' disorientato, perché è un buon film, è fatto bene, è recitato bene, è diretto bene, è un ottimo compito, cioè un compito svolto molto bene, però hai sempre l'impressione che chi racconta la storia si senta un po' fuori posto, cioè che non abbia tutte quante le sensibilità, le capacità per poter poi arrivare dove vuole arrivare, e alla fine paradossalmente ci arriva, perché è un ottimo raccontatore di storie e quindi sa raccontare anche questa storia, ma l'impressione è che veramente siano tutti a suo agio tranne Fatih Akin, o forse è semplicemente un rovesciamento della visione, è lo spettatore abituato, troppo abituato, tendente magari a stereotipare la carriera di un regista a quello che racconta Fatih Akin, che si sente disorientato fino alla fine. È un film comunque interessante, secondo me, un film comunque da vedere anche per il tema che porta avanti, che è molto importante, e anche perché è giusto seguire un regista che ha il coraggio di ripensarsi completamente, insomma questo è un Fatih Akin che non avete mai visto e che forse non rivedrete più, quindi vale la pena solo per questo, se lo amate, di andarlo a cercare. La Rosa Purpurea. E siamo ancora insieme alla Rosa Purpurea, quarta parte del nostro programma. Parliamo, come annunciato, di Grease, il musical, che è al Teatro della Luna di Milano fino all'inizio di maggio, quindi avete parecchio tempo per andarci, e noi vi aiutiamo ad andarci gratis, a gratis, come si diceva una volta, perché ai nostri ascoltatori che da questo momento ci scriveranno un SMS al numero 349-238-6666, è il solito numero di Radio 24, 349-238-6666, tre coppie di nostri ascoltatori, 6 persone in totale, giovedì 23 aprile andranno al Teatro della Luna, ritireranno in biglietteria 2 biglietti a coppia e andranno a vedersi Grease, il musical, che è diventato un vero e proprio classico della tradizione musical italiana. Stavolta arriva con delle modifiche anche sostanziali che riguardano soprattutto le coreografie, con un cast nuovo di zecca. È in collegamento con noi Floriana Monici, che recita sul palcoscenico del Teatro della Luna il ruolo di Rizzo, quello che fu di Stoker Channing nel film con John Travolta e Olivia Newton-John, un personaggio davvero forte, importante, caratterizzante in questo film e anche in questo musical. Ciao Floriana, ben trovata alla Rosa Purpurea. Buongiorno a tutti, che piacere, che bella presentazione, grazie. Senti, allora raccontaci un po' il tuo rapporto con questo personaggio, quanto c'è di pescato dalla Stoker Channing del film, personaggio forte, tosto, una vera e propria capobanda, diciamo, quanto hai portato sul palcoscenico, quanto hai cambiato? Inizialmente è stato difficile un po' sradicare quello che si era formato, no? A furia di farlo. E mi sono rifatta molto al film, devo essere sincera, quindi questa sua un po' più sfacciataggine, un po' più, paradossalmente nel film lei è molto sfacciata ma è anche molto dolce, e Saverio Marconi con la sua regia ha cercato di renderla proprio così. È molto bella quest'anno, a me piace tantissimo, in più Carla Coramboni ha fatto dei costumi sia per me sia per i miei compagni di squadra, come mi piace chiamarli, meravigliosi, gioiosi, sembra primavera in palcoscenico quest'anno. E quindi il personaggio, io sono cresciuta, ma il personaggio è tornato un po' indietro con l'età. Mi piace dire questa cosa. Senti, infatti nel film Rizzo è un personaggio, una ripetente, diciamo così, no? Rispetto al cuore, una pluriripetente. Però è anche una donna che soffre molto, secondo me. Io l'ho sempre vista con grande tenerezza, perché è una donna che fa la dura, però ha una sofferenza interiore davvero grande. Diciamo che fa la dura per non essere un po' mangiata. E soprattutto sai che in quegli anni comunque o eri la donna sottomessa all'uomo che si sposava e quindi restavi così, oppure eri Rizzo, nel senso c'erano un po', non era così semplice all'epoca, ci si sposava con i Marines piuttosto che, cioè, diciamo che si cercava una vita matrimoniale che forse Rizzo col suo carattere non aveva così facilità a trovare, ecco. E allora andiamola a guardare questa Floriana Monici, questa Rizzo, questo Grease sul palco del Teatro della Luna. Ricordo ancora tre coppie di ascoltatori della Rosa Purpurea, giovedì 23 aprile al Teatro della Luna con noi. Basta mandare un sms con il vostro nome ovviamente al 349-238-6666 dicendo appunto di voler andare a partecipare alla recita, allo spettacolo. Non perdete questa occasione, ragazzi, è uno strabiliante. Assolutamente, ma guarda, per accontentare tutto il popolo della Rosa ci vorrebbero centinaia di biglietti, quindi saranno solo i più fortunati potranno farcela. Grazie ancora a Floriana Monici e in bocca al lupo per questa avventura con Grease. Ok, grazie. E allora parliamo adesso di cinema da vedere in casa, cominciando come sempre dalla soluzione del game della scorsa settimana. La conosco. L'ho vista al centro volontari. Volevo dare una mano. Spero che non le dia fastidio se sono passato. Ho trovato il suo indirizzo su questa lettera che ha scritto a mia moglie. Si trattava di Gone Girl, l'amore bugiardo, uno dei protagonisti dei recenti premi Oscar. Lo hanno indovinato per primi e riceveranno il bellissimo Blu-ray di Gone Girl Paolo Lo Iaconi di Genova e Luca Tagliuti di Napoli. Saranno loro a ricevere questo film, di cui ci facciamo raccontare tutto in questa edizione un video dagli amici di Film TV, e con noi Giulio San Giorgio. Ciao Giulio! Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Sì, esce in versione Blu-ray quello che è uno dei migliori film di quest'anno, appunto l'amore bugiardo, Gone Girl di David Fincher, che è un tesissimo thriller tanto hitchcockiano da sembrare una sorta di parodia perturbante, una commedia del rimatrimonio in giallo, nero e rosso sangue, ma anche un film che riflette sul mondo al tempo dell'ossessione per l'immagine da offrire al pubblico. È veramente una satira sul nostro tempo che si può gustare in tutto il suo fulgore tecnico in questo Blu-ray che esalta il lavoro sull'immagine digitale e la dinamica del sonoro. Come extra c'è il commento del regista, che forse oggi è colui che meglio in America sa raccontare lo spirito del tempo. La confezione del Blu-ray è elegante in un digipack cartonato, insomma una cosa da avere. Assolutamente un bell'oggetto, oltre che un bel film. Invece andiamo a dare un'occhiata a quello che succede in TV, perché c'è una vera e propria Bertolucceide, diciamo così, con ben tre film del maestro Emiliano, domenica 12 aprile. Sì, quando si dice i casi della programmazione, si omaggia a Bernardo Bertolucci anche senza nessuna ricorrenza con tre film in un paio di ore. Si inizia alle 21 su Iris con Il Te nel deserto, che è un Bertolucci intimista nel paesaggio paradossale e meraviglioso del deserto nordafricano, una storia d'amore però fuori dal romanticismo. Alle 21.35 su Rai Storia, quindi praticamente in concorrenza, c'è La strategia del ragno, che è il ritorno di un figlio nei luoghi della Bassa Padana che hanno consacrato il padre come eroe antifascista, che è un film veramente labirintico, un dramma di scoperta e ossessione tratto da Borges e girato con un occhio da De Chirico e un orecchio alla lirica, un film veramente onirico e delirante, che tra l'altro Carlo Freccero recentemente ha curiosamente battezzato come il precursore italiano di True Detective. Chiude Io e te su Iris alle 23.45, che è adattamento di un romanzo di Ammaniti, un film veramente libero con due attori in una cantina che diventa il teatro psichico di un ego ipertrofico, un film bellissimo di un poeta che veramente non ha paura di lavorare sul kitsch e sa regalare immagini indimenticabili di cinema. E allora, grande Bernardo Bertolucci, domenica, con tutti questi appuntamenti, dal Tè del Deserto alle 21 su Iris, alla Strategia del Ragno alle 21.35 su Storia. Fate andare i videoregistratori se ce li avete ancora, perché altrimenti non riuscite a seguire tutto. Martedì 14 aprile, Giulio, a piedi nudi nel parco, un classico di sempre. Sì, primi giorni di una coppia di sposi novelli dopo la luna di miele, una coppia decisamente eterogenea a livello caratteriale, una commedia che da Broadway, scritta dal genio comico di Neil Simon, è portata sul grande schermo da Robert Redford e Jane Fonda, diretti con la solita grande capacità maturata in anni di teatro da Gene Sachs, regista da poco scomparso, che è veramente giusto omaggiare con la visione di questa commedia deliziosa e ficcante sul matrimonio, con una Jane Fonda di erotismo veramente iconico, è un Redford che le sta al passo. Martedì 14 aprile, quindi, a piedi nudi nel parco, una bella prima serata alle 21.15 su Rai Movie. Grazie Giulio, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao Franco, alla prossima. E siamo arrivati in fondo alla nostra trasmissione. C'è il tempo ancora per la nostra iniziativa insieme all'Alleanza delle Cooperative Italiane di Lombardia e il patrocinio dell'Ampi Lombardia, Una Mattina, il nostro concorso con il quale chiediamo a tutti i nostri ascoltatori di dirci quali sono i film sulla Resistenza e sulla Seconda Guerra Mondiale che da qui si sentono più rappresentati e che vorrebbero vedere il 25 aprile sul grande schermo proiettati. La settimana scorsa, fra i 10 film, proponiamo 10 la settimana, ha vinto Schindler's List. Questa settimana sul nostro sito, a partire dalla home page, il sito di Radio 24, troverete il modulo in basso per partecipare. Potrete votare Il Generale della Rovere, Una Vita Difficile, Strategia del Ragno, a proposito di Bertolucci, Una Giornata Particolare, Il Caso Martello, I Nostri Anni, Arrivederci Ragazzi di Louis Malle, perché il concorso non è solo italiano ma internazionale, La Rosa Bianca, Il Grande Dittatore, Salvate il Soldato Ryan con Spielberg che ritorna dopo aver vinto la terza tranche. Alla fine, fra tutti i film vincitori di ogni blocco, un film sarà quello degli ascoltatori della Rosa Purpurea, che sarà proiettato appunto il 25 aprile. Votate a partire dal nostro sito Radio 24, dalla pagina della Rosa Purpurea oppure dalla nostra pagina Facebook. È tutto, grazie per averci seguito. Appuntamento fra 7 giorni qui alla Rosa Purpurea, tutto il cinema che c'è, con Franco D'Assisi.